Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Un saluto da Maurizio Melis. Questa sera e anche domani sera faremo il punto su un fenomeno in grande crescita, anch'esso figlio di questa nostra società dell'informazione. Parliamo del peer-to-peer lending, ovvero il prestito peer-to-peer, che in pochi anni, almeno a livello mondiale, ha raggiunto dimensioni ragguardevoli e che d'altronde è davvero una frontiera emblematica della cosiddetta sharing economy. Ne parliamo con Francesco Sacco, che è già stato nostro ospite, è docente di economia all'Università dell'Insubria e anche all'Università Bocconi, ed è membro del tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale della Presidenza del Consiglio. Buonasera Sacco. Buonasera a tutti. Allora, intanto spieghiamo un po' meglio che cos'è questo prestito peer-to-peer e anche quali sono i numeri nel mondo di questa pratica emergente. Allora, il prestito peer-to-peer è un prestito in cui non è una banca a erogare un prestito, ma sono dei singoli privati a sottoscrivere una richiesta di credito che viene da un altro privato oppure da una società. Per capirci, questo prestito tra privati viene poi intermediato da una piattaforma, no? Internet tipicamente. Normalmente è intermediato totalmente online ed è una piattaforma che non prende nessun rischio di credito, quindi non è che presta propri soldi, mette a disposizione di investitori delle richieste di finanziamento che possono essere coperte o meno. E io copro con il mio denaro, diciamo, copro la singola richiesta di finanziamento di un altro, è così che funziona o c'è un meccanismo un po' più complesso? Può coprire sia la singola richiesta di una persona, può essere invece poi un meccanismo cumulativo, quindi vado a investire su una serie di prestiti più ampi, oppure può essere addirittura indirizzato un prestito a uno scopo ben preciso. Negli Stati Uniti c'è grande diffusione, ad esempio, per i prestiti che vengono fatti per gli studenti per frequentare l'università. D'accordo, d'accordo. E comunque diciamo che si può usare queste piattaforme per fare un prestito individuale da persona a persona, perché comunque ci sono degli elementi di garanzia che offrono queste piattaforme, oppure io posso usarlo un po' come un fondo, no? Decido di prestare a una categoria e lì viene spezzettato il mio denaro su tanti prestiti diversi per diminuire il rischio, se ho capito bene. Ecco, vediamo appunto i numeri. Allora, adesso come mercato vale 111 miliardi, questi sono dati del 2015 a livello globale. Se il posto dove è più forte in assoluto è anche dove è nato, quindi nel Regno Unito. In Europa, l'Europa nel suo complesso vale 7 miliardi, ma quasi l'interezza di questi 7 miliardi è fatto dal Regno Unito. Soprattutto perché nel Regno Unito il governo addirittura ha intercettato nel prestiti peer-to-peer un vettore di sviluppo dell'industria, quindi lo supporta direttamente. In più si sono sviluppate diverse partnership con banche tradizionali. Ecco, poi c'è la Cina, no? La Cina ha un'opportunità enorme, che è data dal fatto che il mercato del credito tradizionale cinese è praticamente inesistente. Lì cresce del 234% all'anno e ha sviluppato delle forme tipo Rapid Finance in cui si può erogare credito al consumo addirittura tramite instant message utilizzando QQ di Tencent. Quindi si possono ricevere prestiti nell'arco addirittura di ore. Ecco, che tipo di bisogno intercetta questa forma di prestito peer-to-peer? Un po' l'abbiamo detto, no? Laddove i servizi finanziari sono scarsi o inesistenti, si sostituisce un po' al circuito bancario tradizionale. Ma in generale, chi chiede soldi in prestito con questo circuito e perché? Chi li eroga e che cosa si aspetta? In particolare quelli che chiedono questo tipo di prestiti sono privati e piccole e medie aziende. Il mercato è esploso dal 2008 proprio perché con il 2008 le banche hanno cominciato una stretta del credito. La famosa stretta creditizia, certo. E in generale, mentre le grandi banche approvano all'incirca il 22% delle richieste di finanziamento, prestito, sì. E gli alternative lenders, insomma, come il peer-to-peer, arrivano a provare fino al 60-61%. La verità è che non è soltanto una questione di selezione delle domande, è anche una questione di costi. E naturalmente per le grandi banche, per le banche tradizionali, questi costi fissi, diciamo, sono molto più alti. Quindi da un lato si va proprio a intercettare un pezzo di mercato che il circuito bancario sostanzialmente non era in grado di intercettare perché troppo spezzettata, diciamo così. Chi invece concede questi tipi di prestiti, perché lo fa? Ma innanzitutto perché ha un rendimento che è più interessante. Se noi parliamo degli Stati Uniti, nel periodo 2007-2014 è stato dell'8,8%. In Italia la media 2015 era il 5,5% pre-tasse, ma noi abbiamo le leggi contro l'usura che tengono più bassi i costi. Ecco, in termini puramente di trasparenza, c'è un beneficio? Allora, i peer-to-peer lender fanno una istruttoria di rischio per quanto riguarda l'affidamento uguale, se non più approfondita, utilizzando anche fonti che sono diverse e più ricche delle banche tradizionali. Danno un merito di credito che indica poi il rischio di quell'investimento in modo molto chiaro, in stelline piuttosto che con altre metriche, e naturalmente danno dei profili di rischio rendimento che il singolo investitore può scegliere, quindi scegliere di rischiare meno, guadagnare meno, oppure scegliere di rischiare di più e guadagnare di più. E comunque esattamente come si fa quando si fa un acquisto su internet, quando uno ha una storia alle spalle c'è modo di vedere se quella persona a cui stiamo prestando i soldi è un buon pagatore oppure no. Va bene, ci fermiamo qui e continuiamo a parlare di peer-to-peer lending domani. Per intanto, grazie Sacco. Buonasera a tutti, a presto. A domani.